Dopo l'attentato in Spagna, nel giro di pochi mesi, per la seconda volta, le conseguenze della tragedia irachena si ripercuotono sul periodo elettorale di un paese occidentale. Questa volta è il caso dell'Italia, con la liberazione degli ostaggi. Ma il fatto nuovo è che mentre l'attentato di Madrid e la cattiva gestione da parte di Aznar si sono ripercossi in maniera negativa sulla sorte del governo di centrodestra, questa volta la liberazione degli ostaggi italiani e soprattutto il momento della liberazione, 4 giorni prima delle elezioni europee in Italia, per la prima volta queste conseguenze si ripercuotono oggettivamente a favore di un governo occidentale. Tanti restano ancora diversi punti oscuri, alcuni dettagli, soprattutto sulla liberazione, che come ha detto Berlusconi non possono e non devono essere conosciuti dai cittadini. Prima di tutto c'è da capire del sequestro. Poco prima i quattro bodyguard italiani fossero stati disarmati dalle truppe americane che li avevano fermati a un posto di blocco. Probabilmente questi uomini sono caduti in una trappola, chi sapeva che questi uomini in quel momento, proprio in quel momento, erano disarmati e tornavano in albergo per procurarsi delle altre armi? E poi un altro punto da chiarire: come mai è stato ucciso proprio Fabrizio Quattrocchi, l'uomo che si era unito agli altri tre che invece già da tempo lavoravano insieme? E come mai ancora proprio Stefio, in qualche modo l'organizzatore della spedizione, il leader di questo gruppo, proprio Stefio è stato scelto per parlare nei messaggi televisivi che i sequestratori hanno mandato anche in Occidente attraverso alcune TV arabe? E ancora un punto da chiarire: come mai l'organizzazione di Stefio, un'organizzazione che raccoglie soldati privati, aveva tra l'altro una sede a Olbia, in Costa Smeralda, quasi che il nord Sardegna sia diventato una zona di operazioni militari al pari dell'Iraq? Ma soprattutto quello che accade in questo momento è che i cittadini italiani, a pochissimi giorni dall'apertura delle votazioni, in mezzo alle urne elettorali si trovano a fare i conti con un'urna funeraria, ed è quella di Fabrizio Quattrocchi. Marco Mostallino per Amisnet e Reporter Associati.